A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo parliamo di calcio, non solo il calcio dei grandi campioni, dei grandi professionisti e dei grandi campioni milionari, ma anche il calcio di quei calciatori che fanno la storia di questo sport, ma che magari a un livello inferiore, terminata la loro carriera, sono chiamati a inventarsi un futuro, magari cercando di rimanere nel mondo del calcio, oppure a seconda delle loro possibilità e capacità, cercando di costruirsi una carriera al di fuori del rettangolo di gioco. Ancora in carriera si chiama il progetto che l'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Federcalcio e con lo studio Ghiretti, stanno proprio sviluppando per aiutare chi campionissimo non è stato in carriera a inventarsi proprio e a crearsi delle opportunità una volta appese gli scarpini al chiodo. Bene, allora ne parliamo oggi proprio con Diego Bonavina, il nostro primo ospite, dirigente dell'Associazione Italiana Calciatori. Benvenuto, dottor Bonavina, ex calciatore, avvocato. Beh, ci spieghi, dottor Bonavina, come nasce questo progetto? Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'ospitalità, sono ovviamente orgoglioso di poter parlare di questo progetto, perché è un progetto che nasce da distante, sono credo 6-7 anni che personalmente ho questa idea di dare un aiuto anche per i giocatori a fine carriera. Ho sempre pensato che una formazione specifica fosse necessaria per dare delle possibilità ulteriori ai calciatori che finiscono di giocare, oltre a quella di potersi reinserire nel mondo del calcio come allenatore, come direttore sportivo, come quelle figure che ormai note nel mondo del calcio. Lavorando, incontri vari eccetera, ho avuto la fortuna di incontrare nella mia strada il responsabile dello studio Ghiretti, il dottor Ghiretti in persona, con il quale abbiamo condiviso subito un percorso importante e abbiamo deciso di stilare un progetto che ha l'obiettivo primario di sviluppare le competenze professionali dei calciatori a fine carriera, quindi per consentire un inserimento nel mondo del lavoro dentro e fuori lo sport. È un progetto importante, evidentemente, un progetto molto ambizioso, però credo che l'Associazione dei Calciatori abbia, visto che si occupa della tutela dei calciatori dal punto di vista sindacale e non a 360 gradi, sia importante per tutti questi calciatori che finiscono di giocare, che sappiamo è un momento molto difficile perché non tutti sono Demetrio Albertini o Damiano Tommasi o anche Demetrio Albertini e Damiano Tommasi, che tra poco verranno coinvolti nella chiacchierata perché sono già in attesa. Lo dico perché Damiano Tommasi è il testimonial di questo progetto, perché Demetrio Albertini credo sia, oltre a essere un amico, è, voglio dire, anche vicepresidente federale, quindi voglio dire sono degli esempi da seguire per il dopo calcio, però voglio dire non tutti purtroppo hanno questa fortuna e l'Associazione dei Calciatori ha pensato di aiutare queste persone. Alcuni numeri lo testimoniano, no, dottor Bonavina? Un'indagine su 3.000 giocatori, quasi il 98% di questi ha qualità e abilitazione per inserirsi anche professionalmente nel mondo del calcio, appena il 10% di questi ce la fa. Abbiamo chiamato in causa Demetrio Albertini, che è già in collegamento con noi, vicepresidente federale, grande ex campione del Milan, del Barcellona e di molte altre squadre. Vicepresidente, il supporto della Federcalcio a questa iniziativa è garantito, ma in che modo? Come collaborerete per rendere concreto questo progetto? La collaborazione, oltre che il patrocinio, è proprio nell'articolo 1 proprio della federazione, nel senso che la prima situazione che ha a cuore la federazione, che è l'istruzione, assolutamente la promozione del calcio e quindi dare anche il sostegno agli ex calciatori che finiscono e dopo poter arrivare ad apprendere, quindi a conoscere quello che può essere, ad avviare proprio all'inserimento del dopo calcio in un mondo di lavoro. questa è già una situazione concreta. La federazione mette a disposizione tutto il know-how del centro tecnico di Coverciano, del centro studi e della location proprio del centro di Coverciano, quindi si faranno lì proprio questa settimana, si svolgerà questa settimana di studi o comunque di infarinatura proprio del mondo del lavoro per gli ex calciatori, e quindi questo penso sia una cosa concreta. Anche perché, vicepresidente, i conti del nostro calcio sia a livello macroeconomico che a livello di singoli club sono sempre più problematici da questo punto di vista. Non a caso quest'anno sono diverse le società e soprattutto i giocatori che hanno denunciato il ritardo nei pagamenti di stipendi e situazioni problematiche di questo tipo. Anche se devo dire che la cosa più importante che l'associazione calciatori continua a ripetere è quello che il calciatore ha delle esperienze in carriera molto utili al mondo del lavoro, però non sufficienti per poter dare il contributo, perché sennò verrebbero solo usati come uomini immagine e basta, quello che succede oggi magari in alcune squadre. Dare l'opportunità di istruzione, di apprendimento, di altre materie che quindi possono essere oggi inerenti al nostro mondo calcistico o comunque ti avviano anche per una strada extra calcistica, extra mondo, che possono essere quella del marketing, i diritti televisivi, i rapporti con i propri dipendenti o comunque la gestione delle risorse umane, queste situazioni. Hai un know-how da spogliatoio, il calciatore, che può essere importante, ma deve essere incanalato bene, cosa che magari, non avendo vissuto il mondo del lavoro se non quello dello spogliatoio e basta, non si ha le capacità. Questo corso, chiamiamolo così, ti dà l'opportunità per potersi affacciare al mondo del lavoro. Eh sì, in programma un corso per lo sviluppo delle competenze generali, poi corsi di approfondimento tematico con colloqui e test di orientamento a cura di professionisti di vari settori e poi un portale internet della formazione in collaborazione con l'associazione calciatori proprio per seguire a distanza video, lezioni, dispense, richiedere supporto informativo. Damiano Tommasi, grande ex campione della Roma, della Nazionale Azzurra, tra le altre cose, com'è stato per te l'inizio del dopo carriera, che tra l'altro è freschissimo perché fino all'anno scorso eri ancora in campo in Cina, no Damiano? Sì, è abbastanza tipico perché ho smesso in questa stagione calcistica per capirci, perché il campionato in Cina finisce a novembre, quindi a ottobre, ho smesso dal punto di vista professionale a ottobre e continuo ancora a giocare a calcio, ma non più come lavoro. Quindi sono nel momento giusto per prendere questa decisione, se non altro di capire cosa mi serve per riposizionarmi nel mondo del lavoro. Ecco, da questo punto di vista, quali possono essere gli interlocutori di chi comunque ha avuto successo nel mondo dello sport, è stato ed è campione ammirato, apprezzato? Si riesce ad andare dalle persone e spiegargli, guarda, per me è davvero difficile reinventarmi un futuro, anche se l'album dei ricordi, delle foto e le bacheche sono piene di trofei belli e bei ricordi appunto. Corso, comunque il progetto che è ancora in carriera ha la finalità di dare i mezzi a chi ha acquisito nei suoi anni di carriera un carisma, un'immagine o una conoscenza del mondo del calcio, nel mondo del calcio e del mondo del calcio che difficilmente si può acquisire, però per una serie di coincidenze, di eventi, non ha potuto proseguire la carriera scolastica, non ha potuto approfondire alcune tematiche. Nel calcio di oggi, comunque nell'ambiente sportivo, certe conoscenze e competenze sono necessarie, altrimenti si rischia, come diceva prima Demetrio, insomma, di essere l'uomo immagine e punto. Credo che l'obiettivo nostro dell'Associazione Calciatori, l'obiettivo di questo corso e del proseguo che sarà negli anni ampliato e non più limitato ad una settimana, è quello di proprio di fornire i mezzi per essere, dico io, all'altezza della propria immagine che uno ha acquisito, però anche per chi magari ha giocato a livello professionistico in categorie inferiori, comunque di dare seguito a queste competenze specifiche all'interno del mondo del calcio, nello spogliatoio, quindi dinamiche sportive, dinamiche tecniche, insomma supportate da una conoscenza anche teorica e di numeri, di, come si diceva prima, gestione delle risorse umane, gestione di quella che può essere un'azienda, cose che tra l'altro insomma parecchi di noi, visto che smettiamo intorno ai 35-37 anni, di più di meno, ci dobbiamo confrontare con queste realtà comunque, perché se non è nel calcio in un'altra realtà lavorativa dobbiamo andare a riposizionarci, e quindi comunque sia sono corsi questi che secondo me servono e fanno bene a chi, guardandosi attorno, capisce che gli mancano alcune competenze. Una battuta ancora con Demetrio Albertini, vicepresidente, le chiedo, ben vengano questi progetti, ma come state lavorando a livello sia di Assocalciatori che di Federcalcio per intervenire a valle del problema, cioè anche per accrescere quella che è la formazione non solo calcistica nell'età magari scolare o adolescenziale, quando il talento del calciatore intorno ai 16, 17, 18 anni emerge, eppure bisogna ancora mettere le fondamenta per poter inventarsi poi un dopo carriera solido. State lavorando anche su quel fronte, su quel piano? Sta lavorando da tempo, perché già per l'iscrizione ai campionati si è vincolati alla formazione dei propri settori giovanili in senso calcistico, ma soprattutto si è vincolati alla crescita umana e quindi allo studio, l'obbligo di studio da parte di questi giocatori che fanno parte del settore giovanile di ogni squadra professionistica. È normale che ci vuole, oltre che la regola, anche il controllo o comunque la sensibilità da parte delle società a dover portare avanti questo tipo di cammino da parte di un ragazzo, di un giovane. Oggi in un calcio molto considerato business, tante volte queste cose vengono trascurate, ma penso anche che dove c'è grande concorrenza a livello sportivo, la differenza la faccia i valori umani che ognuno ha, e questo lo dico da un giocatore che ha fatto una carriera di un certo tipo ed è cresciuto in un settore giovanile che prima di avermi cresciuto come giocatore di calcio mi ha cresciuto come uomo. Grazie a Diego Bonavina, dirigente dell'Associazione Italiana Calciatori, al vicepresidente della Federcalcio Demetrio Albertini e a Damiano Tommasi per essere stati ospiti a Bordo Campo, e in bocca al lupo allora per quelle che sono le vostre nuove carriere. Grazie, arrivederci a tutti. A Bordo Campo. Beh, sinceramente e per fortuna, per quanto mi riguarda, ho una buonissima tecnica in acqua, quindi questo mi permette di riuscire a nuotare bene anche con un costume che magari galleggia meno rispetto a prima, e devo dire che sono fortunata, devo ringraziare chi mi ha insegnato a nuotare così bene. Inconfondibile la voce di Federica Pellegrini, la regina delle nostre piscine, delle piscine mondiali, che lo avete sentito, sta cominciando a prendere le misure ai nuovi costumi del nuoto mondiale. Perché? Perché a partire dal gennaio 2010 sono entrati infatti in vigore i nuovi costumi, con una storica rivoluzione di fatto. Potranno essere utilizzati ora solamente i costumi fatti in tessuto, pantaloncini per l'uomo e fino alle spalle per le donne, non più quelli con parti in poliuretano e neoprene come era stato a partire dalla vigilia delle Olimpiadi di Pechino 2008, e che hanno di fatto rivoluzionato il nuoto, perché pensate, dal marzo 2008, da quando questi super body avevano fatto la loro comparsa, sono stati battuti, pensate, 245 record mondiali tra la vasca da 25 e 50 metri. Insomma, si torna al passato, e allora cerchiamo di capire oggi a Bordo Campo quali saranno le conseguenze per gli atleti, ma anche e soprattutto per le aziende che tanto avevano investito in questa ricerca. Nostra prima ospite Elena Regonini, responsabile sport marketing di Speedo Italia. Benvenuta, dottoressa Regonini, a Bordo Campo. Ecco, cosa cambia per voi, che pure nel 2008 avevate lanciato il rivoluzionario body Laser Racer? Ma guardi, noi quello che abbiamo cercato di fare è di mantenere il più possibile le caratteristiche del Laser Racer, che era e è per noi un prodotto ad altissimo contenuto tecnologico. È stato testato su 400 nuotatori, abbiamo contato con i migliori nuotatori di tutto il mondo, basti pensare a Michael Phelps, tutta la nazionale australiana, la nazionale americana. Pertanto quello che noi abbiamo proprio cercato di fare è di mantenere le caratteristiche di questo prodotto, ripeto, molto tecnico, e riportarle e cercare di avanzare anche con le serie elite. Ovviamente non possiamo negare che i benefici dell'Acer Acer, essendo un costume intero che quindi rivestiva la maggior parte della superficie corporea, non possono essere uguali a quelli del jammer per gli uomini e il record breaker per le donne, che sono costumi che comunque occupano meno superficie corporea e quindi anche dal punto di vista della fisica propria pura portano insomma meno benefici, però la tecnicità del costume, il tessuto da noi sviluppato è lo stesso praticamente. Ecco, ma mi faccia capire, non è che magari fra 2 anni ci ritroviamo comunque a riscrivere il libro dei record, perché oltre agli allenamenti, alle capacità degli atleti, anche questi nuovi vecchi tessuti saranno performanti così come quelli che ora sono stati messi al bando, per sintetizzare? Ma guardi, io credo che la differenza è tantissima, nel senso che il jammer per l'uomo non può avere la stessa influenza che aveva un costume intero in precedenza, soprattutto per quanto riguarda l'assetto nell'acqua. Sappiamo che i costumi in poliuretano garantivano e aiutavano molto nella posizione idrodinamica nell'acqua e quindi anche per il galleggiamento del nuotatore, aiutava più i nuotatori più pesanti, quelli con più massa muscolare. Un jammer, proprio per le regole FINA, l'imposizione di questo costume non può ottenere gli stessi risultati di quelli che erano i costumi precedenti, quindi di terza generazione, ma proprio dal punto di vista fisico, di leggi fisiche. Noi crediamo che molti nuotatori che magari sono stati svantaggiati dagli altri costumi, quindi con i costumi performanti, riusciranno a migliorare nettamente. Ad esempio noi abbiamo Filippo Magnini che purtroppo per fortuna, perché lui è talentuoso, è un talento puro e quindi lui non ha bisogno del costume che lo faccia galleggiare, che gli faccia mantenere una posizione idrodinamica, lui è in acqua correttamente posizionato da solo, pertanto noi siamo sicuri che lui con questo nuovo costume, con queste nuove regole, tornerà ad avere ottime prestazioni. Grazie ad Elena Regonini che ha presentato, intavolato un tema interessante, cioè come cambia anche il modo di nuotare per quegli atleti che ben si erano adattati ai superbody e che ora dovranno di fatto cambiare il loro strumento di lavoro. E allora ci ha raggiunto ora Giuseppe Musciacchio, direttore Global Marketing di Arena. Ecco, dottor Musciacchio, dal punto di vista della tecnica del nuotatore, cosa cambia? Cosa cambierà rispetto ai body in poliuretano? Diciamo, i costumi di ultima generazione, cioè prima del cambio delle norme FINA, costituivano un ausilio alla tecnica del nuoto piuttosto significativo. In particolare a livello di impostazione della posizione del nuotatore in acqua, a seconda di quella che è la struttura fisica del nuotatore, il costume era in grado di influire in maniera più o meno importante. Sappiamo, insomma, dagli studi che i nuotatori più muscolari, più pesanti, anche più grassi, se mi si consente questa parola che è strana per un atleta, potevano avere vantaggi più evidenti di magari nuotatori più longilinei o più snelli o con una massa muscolare più asciutta. Per alcuni questo effetto di fatto sostituiva quello che nel gergo tecnico si chiama l'allenamento del core, cioè anni e anni di nuotate per imparare a tenere una posizione sempre dritta, diciamo, in acqua. Quindi qualcuno che non ha più l'aiuto del costume adesso dovrà ricominciare ad allenarsi seriamente, perché altrimenti gli vanno giù le gambe. Insomma, tanto tempo libero in meno, no? Per questi atleti, mi conceda la battuta, perché poi insomma la situazione sull'argomento ha avuto a volte anche dei risvolti paradossali, si è assistito a vere e proprie battaglie legali, si è ragionato sull'ultima virgola di questi regolamenti. Dal punto di vista di un'azienda come la vostra invece cosa cambia? Cioè i brevetti, il lavoro sviluppato precedentemente che fine fa? Perché la tecnologia può essere sì limitata dai regolamenti, ma è chiaro che un'idea una volta messa a punto rimane e dovrà trovare una sua applicazione. Noi non siamo un'azienda contro la tecnologia, per carità, ci mancherebbe. Tra l'altro abbiamo dimostrato che nel momento in cui abbiamo deciso di giocare secondo le stesse regole che in quel momento diciamo ispiravano tutti gli altri competitor, come si è visto a Roma durante i campionati del mondo, insomma il costume di gran lunga più utilizzato e più performante è stato quello di Arena. però insomma dal nostro punto di vista riteniamo che, siccome si tratta di sport qui e non di tecnologia fine a se stessa, ci devono essere dei limiti, dei vincoli. Le aziende che operano in questo settore in qualche maniera devono tenere chiaro in mente che non è la tecnologia l'obiettivo, ma è in qualche maniera aiutare gli atleti a massimizzare un potenziale che hanno. Noi abbiamo imparato tanto sviluppando i nostri costumi negli ultimi 3 anni, sono tutte cose che ci consentiranno di, diciamo, di proporre sul mercato prodotti migliori anche non per un utilizzo da gara. In ricerca e sviluppo non si butta via veramente mai niente, quindi insomma riteniamo che anche il lavoro fatto sui costumi negli ultimi 3 anni sarà un lavoro che porterà benefici e risultati per un'azienda che comunque come noi sta sul mercato del nuoto dal 1973, quindi non da ieri. Diciamo, se si ha la volontà di tornare ad avere una competizione sana in cui è anche possibile stabilire dei primati a livello mondiale, probabilmente è sulla tabella dei record che bisogna intervenire prima che sui costumi. Nel momento in cui si tornerà, se succederà, al record del mondo di Van den Hogeman sui 100, probabilmente per gli atleti sarà possibile stabilire un nuovo record del mondo anche senza avere un costume full body. Se il record resta quello attuale di Cielo, credo che non si vada da nessuna parte. Chiudiamo con un ultimo ospite, Francesco Fabbrica, fondatore e presidente di JAKED, lo sponsor tecnico della nazionale italiana e che pure aveva lanciato il modello 01 subito all'avanguardia nella sfida tra body tecnologici. Ecco, dottor Fabbrica, le chiedo come valuta questa ennesima rivoluzione a bordo Vicina e soprattutto quali possono essere a questo punto gli scenari futuri sotto il profilo della ricerca applicata allo sport e al nuoto in particolare. Io mi auguro che, cioè, sinceramente ci sia una via di mezzo. Noi chiaramente, ecco, come Jacket, cioè, siamo già, diciamo, alla ricerca e sviluppo, cioè, di nuove soluzioni già proiettate nel 2011 e nel 2012, perché chiaramente il polmone e il cuore di un'azienda è la ricerca e sviluppo, non è tanto, cioè, la produzione. Cioè, sicuramente ci sarà un ripensamento. Io mi auguro per il bene dello sport, ecco, non per il bene, cioè, di Jacket. Io a questo punto, cioè, fare un discorso un filino più generale, cioè non tanto legato ai marchi, ma legato proprio alla filosofia, insomma, del portare delle novità in un mondo che sta sempre andando molto molto velocemente, fra le altre cose, no? Ma diciamo tutto il know-how che avete sviluppato nel senso iperfuturistico dei costumi di ultimissima generazione, adesso che ricadute ha? Non è che insomma ci sarà il cimitero dei super costumi? No, questo qui no, cioè, sicuramente no, perché io posso dire che, diciamo, delle vendite ancora del J01 che ci sono ancora e che lo utilizzano per qualche altra applicazione, cioè, sicuramente. Io vedo che come soluzione tecnica, proprio legata anche al tessuto, ha un'applicazione, cioè, che può essere anche, cioè, vista anche in altri settori, non soltanto legata al puro nuoto. Ecco, ci fa qualche esempio per capire. Guardi, tutto quanto riguarda, cioè, velocità e quindi, cioè, basso attrito con i fluidi, quindi questo è importante a livello, cioè, di tessuto. Quindi esistono tanti sport, noi stiamo sperimentando alcune soluzioni che possono essere interessanti anche per altri sport. Ecco. Per esempio nel pattinaggio di velocità su ghiaccio farebbe comodo. Sicuramente, sì. Cioè, vediamo che il mercato è molto attento alle soluzioni tecnologiche. Io parlo del mercato sportivo, quello che invece è il nuoto è tornato indietro. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. A Bordo Campo torna domenica prossima alle 14.30, sabato come d'abitudine alle 13.15, invece A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.